Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Da poche ore al centro Sara di Lainate, nei pressi di Milano, si è conclusa la giornata di apertura di Revolution Electric Dry Days, una 3 giorni dedicata al mondo dei veicoli elettrici, sia automobili sia due ruote, che offre tra le altre cose ai visitatori la possibilità di provarli in pista questi veicoli e ospita un raduno di possessori di veicoli elettrici. È stata una giornata di convegni, di firma, la presenza di istituzioni governative e non, della carta degli impegni per la mobilità elettrica, che punta a sintetizzare le linee guida per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, un settore in cui siamo in ritardo. Noi di Smart City siamo stati lì a dare un'occhiata, sentiamo com'è andata. Raffaele Tiscar, vice segretario generale presidenza del Consiglio dei Ministri. Ci troviamo qui a Revolution, si parla di mobilità elettrica, tutti sentono la necessità di un qualche tipo di piano strategico che in questo momento non c'è. A che punto siamo da questo punto di vista? Beh, intanto abbiamo iniziato un'importante iniziativa di coordinamento tra i vari ministeri coinvolti, che cerca di affrontare il tema della mobilità sostenibile in modo organico e con un arco temporale di visione che non è breve ma è di lungo periodo. Questo, diciamo, è probabilmente il punto di vista più coerente con gli impegni che l'Italia si è assunto a livello internazionale, e credo che sia anche l'ambito più idoneo per consentire a tutti gli operatori di avere un quadro di certezza entro cui riposizionarsi con i propri investimenti, la propria presenza di mercato e le proprie offerte di carattere commerciale. Due precisazioni da questo punto di vista le chiedo. Uno, se avete un'idea dei tempi con i quali potrete produrre qualcosa di efficace, e in secondo luogo se all'interno di questo piano è prevista una qualche forma di sostegno economico. Le forme che qui sono state proposte sono varie, da classico incentivo come si fa in altri paesi europei alle detrazioni fiscali, all'IVA agevolata. Ecco, queste sono le due domande. Comunque, i tempi, diciamo, lo strumento che è a portata di mano ma che richiede tempi molto rapidi per la produzione di un documento è la prossima legge di stabilità. Per quanto riguarda gli incentivi, è evidente che è uno degli strumenti adottabili, con tutta la cautela del caso, perché gli incentivi sono una droga, quindi bisogna inserirli in una strategia di lungo periodo in cui non si vive di incentivi. Gli incentivi è un boost, è uno slancio iniziale, ma poi bisogna creare le condizioni per vivere senza incentivi. Ecco, questo non c'è dubbio, abbiamo anche visto col fotovoltaico come è andata a finire, però qua c'è un fatto perlomeno evidente, cioè che un eventuale sostegno avrebbe, diciamo, dei costi almeno uno o due ordini di grandezza inferiori a quelli dell'investimento fatto sul fotovoltaico, quindi non è una cosa impossibile anche in un momento come questo. Assolutamente no. L'incentivo va contestualizzato in una strategia di medio lungo periodo, soprattutto in un settore magari con un decalage, no? Bravo, esattamente, esattamente. Non sto dicendo che l'incentivo in assoluto è inappropriato, però bisogna conoscere all'inizio qual è la sua prospettazione temporale, in modo tale che uno, che l'imprenditore, che gli investitori abbiano chiaro il contesto certo, non modificabile nel tempo, all'interno del quale riposizionarsi. Le faccio un'ultima domanda. C'è quest'altro tema caldissimo, diciamo, delle self-driving car, cosiddette auto a guida autonoma, che potrebbero tra l'altro rappresentare l'elemento di svolta anche per il settore del mercato elettrico, perché è abbastanza naturale che questi cellularoni siano elettrici. L'America sta partendo con regolamenti molto avanzati, qui vi state interessando alla cosa, almeno a creare un contesto che consente la sperimentazione in Italia di questi mezzi? Allora, ci sono vari piani che si intersecano. Uno sicuramente è relativo al manufacturing 4.0, l'internet delle cose, che si intreccia anche con l'adozione del nuovo regolamento comunitario per quanto riguarda la protezione della privacy e la tutela dei dati. C'è un grande problema relativo alla sicurezza, dove noi siamo sofferenti. L'unico modo è quello di far parlare i vari soggetti coinvolti e avere la pazienza di mettere nero su bianco e consolidare le idee che abbiamo in termini di cose che dobbiamo fare. Per quanto riguarda, per esempio, il regolamento che dovremmo implementare nel contesto italiano a protezione dei dati. Abbiamo avviato assieme all'autorità garante un gruppo di lavoro proprio riguardo all'implementazione del contesto italiano, lo stesso con sia Confindustria Digitale sia Ministero dell'Industria. Abbiamo redatto due documenti, uno riguardante Internet delle cose e l'altro manufatto di 4.0. Diciamo che ma in cascina un po' paura, c'è un ecco, po' vedere cose. Tutte queste premesse per fare una cosa che in fondo potessero cominciare a circolare le prime decine o centinaia di veicoli di questo tipo, probabilmente si attrarrebbe anche il business che ruota intorno ai servizi. Se prima aspettiamo di risolvere i problemi della privacy non rischiamo di metterci troppo tempo, almeno a fare una fase di iniziale. Sto ragionando in termini sistemici, le sperimentazioni troveranno un capitolo adeguato in quello che abbiamo detto essere il piano, però la sperimentazione priva di un contesto rischia poi di rimanere fino a se stessa e non crea l'effetto domino che speriamo.